qualcuno. Ripeto, è il ghirondaggio, devo essere sincero, perché dicendo così, ah, come senti un bel? Posso dire anche, l'amico, lo conosci a Carci, è un amico. Alla fine un amico è sempre quando lo frequenti, capito? Come ci frequentavamo un tempo. Quelli sono amici, veramente qualcuno che ti cerca, viene a trovarti, quello è un amico veramente. Ma infatti io mi reputo da parte tua un amico, noi siamo sempre frequentati, siamo sempre detti le cose sinceramente. Poi ci sono quelli che fanno gli sporchi, capito? Gli sporchi, che davanti ti fanno la bella faccia e dietro te la mettono in culo, e ce ne sono tanti ancora, per carità. Meglio niente, meglio niente. Ma guarda, anche a me mi risulta non devo niente a nessuno. Anzi, c'è molta gente che me ne deve a me, parecchie, per tutto quello che ho sempre fatto per le persone. Però risulta sempre che sono io quello che devo agli altri, quindi già va bene. Ottimo per la truppa, non ci preoccupiamo, io sempre a testa alta cammino. E queste persone infami così, brutte, sporche, io me le metto dietro il buco del culo. Ok, scusando il termine. Avanti, Robert, riprendi, cambiamo discorso, dai, che non serve a niente parlare di queste cose. Tutto bene, Robè? Sì, la settimana sta finendo, dai, c'è ancora domani, poi ti rilasci. Figa, vabbè, cambiando discorso, una domanda. Siccome ieri, non so se il terremoto, l'avete sentito qualcuno di voi ieri? Terremoto? Cioè, il terremoto dove? Allora, il terremoto era in Tunisia, scala 6.3, la scala Richter, è arrivato anche a Sassari. E come ho fatto delle domande, è venuto mio cognato, già lo conosce, Giulio, il vigile del fuoco, e mi ha detto, ieri notte si è svegliato di soprassalto, durato 30 secondi questa cosa, gli ha lesionato anche una parete di casa sua, mi ha fatto vedere le fotografie, una parete che hanno fatto, un divisorio per salire sopra nell'altro ambiente, e dice degli atti, ha levato un brinco allucinante, dice durato 30 secondi, tutta la gente ha aperto le finestre, io mi sono svegliato ieri notte, forse per altri motivi non lo so, però ero sveglio a quell'ora, infatti ero strano, ho detto buco è strano, e ho parlato con un'altra amica di Usilo, la stessa cosa, dice ieri notte lei verso l'una ha sentito questa cosa, tipo quando si sbattono degli insetti sul vetro della finestra, c'è un rumore tipo tac, una cosa così, dice infatti cercate, c'è rimasta colpita, figurati, ho detto, ho pensato a Claudio, ho detto quelli che abitano al nono piano, al decimo piano, chi sarà sul fucinale biliardo, tu non ti sei accorto di niente Claudio. No, però tu stai sbagliando, perché io che ti faccio avere le carte, questo palazzo è antisismico, questo palazzo è forse l'unico assessore che è antisismico assieme ai due grattacieli, il piccolo e il grande, capito? Proprio completamente tutto in cemento armato, tutto allucinante, antisismico, c'è anche scritto, io non me lo ricordavo, ma c'è anche scritto, l'ho visto anche nelle carte che ho preso appunto dal catasto per l'atto, è antisismico. Capito? Perché supera i 10 metri, quindi non ho sentito niente assolutamente, ho sentito solo la TV che ha detto che a Capoteolara appunto è arrivata ad Olbia, è arrivata a questa scossa di terremoto, ma di Sassari non ne hanno parlato, quindi non so cosa dirti, però questo palazzo è antisismico, quindi viene un po' in salita queste scossette così a sentire, capito? Avanti Anto. Sì, no, confermo, io non mi sono accorto di niente, la verità. Se mi ha detto Giulio, la porta, dice, ha vibrato per una trentina di secondi, vedi muovere la porta, dice una cosa, dice allucina, io abito vicino a lui, però sinceramente non mi sono accorto di niente, forse è talmente suonato perché ero mezzo assonnato, però anche quella ragazza di Usilo mi ha detto la stessa cosa, e Usilo è in alto, diciamo teoricamente, magari lo dovresti sentire diversamente rispetto a un palazzo, diciamo, Giulio abita al terzo piano, dai, però ho pensato, chissà chi di Carbonazzi, quelli di grattacieli o quelli di Santa Maria di Pisa o grattacielo di Sassari, ho detto, chissà lo scosso che hanno pigliato. Ah, ma tranquillo, vabbè, le case tue sono fatte negli anni che sono state fatte, questa sì ha 30 anni, però è un palazzo, ti ripeto, le due torri sono antisismiche, anche la terza torre che è leggermente più bassa, sono antisismiche, quindi non è che te ne accorgi molto, dai, io non sento niente, non è che non dormo io, Rob. vabbè, mi sono collegato a toccare la luna e qualcosa. Ieri notte alle 4 e mezza, alle 5 avevo già gli occhi aperti pronti ad alzarmi. Invece sto lì, gira che ti gira, dalle 6 e mezza, 7 meno 20 mi alzo. Capito? Te lo vedi quante volte arrivo prima di te in officina. Perché ho sempre quel sintomo, io per tutti gli anni che ho lavorato non ho mai avuto sveglia e a quell'ora apro gli occhi e quindi non dormo più, c'è niente da fare. Avanti, Lu. Lu Garie. Sì, sono soltanto andato in cucina un attimo. Ehi, vai anche sempre vai niente, dice. No, confermo anche io, comunque non ho mai utilizzato sveglia nella mia vita. Se mi devo alzare alle 3 sono sveglio, alle 5 sono sveglio. Non ho mai avuto una sveglia, davvero. Non è mai esistita a casa mia. Confermo anche io. Poi l'unica cosa di brutto quando cambia l'orario a ristabilizzarti ci metto un mese. A me mi scombussola quello lì. Perché a cacchio mi sveglio sempre comunque, anche se perdete devi svegliare alle 6 e vuoi dormire un'ora di più. Sempre alle 6, se devi dormire un'ora di meno, sempre mi sveglio un'ora in anticipo, cioè non ho modo di, cioè, forse i pensieri di dire dici che mi sveglio tardi, mi preoccupo che mi sveglio tardi e mi ricetto sempre all'ora giusta, però l'organismo cacchio se ne accorge. Quello sì, no, io ormai non dormo più di 5 ore per giorno, quindi mi addormento, che ne so, mezzanotte, mi sveglio alle 5, mi addormento alle 8 di sera, un esempio, alla 1 sono sveglio. Dillo a me, io cacchio sono allucinato, infatti la notte mi, stamattina, il giorno prima ho dormito 5 ore e mezza, ero da un mese, non dormivo così tanto, ieri notte mi sono svegliato 3 volte, alla fine alle 5 del mattino io ho sempre una radiolina vicino, mi pongo radio sportiva, mi ascolto tutte le cronache della giornata, danno la registrazione, tutti i servizi, eccetera, e mi sento a basso volume e mi ritorno a drumi, poi alle 6 e mezza mi sveglio di nuovo. No, io invece mi alzo, me ne vado in cucina, mi preparo il caffè, accendo la macchinetta se lo fa il caffè e io allora mi prendo il gatto, dico io vieni col nonno e mi ha accarezzato il gatto. No, ne mani non ne ho io. Lasciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno su 10 vuole entrare, se no vai tu qua. Io invece mi alzo presto alle 9 però mi sveglio alle 5 più o meno, tante volte mi sveglio alle 4. Insomma, vi frego tutti in poche parole, anche se tutte le notti mi addormento intorno all'1, anche alle 2 tante volte, magari alle 4 sono di nuovo sveglio, magari mi poi riesco a dormire una sola mezz'ora, massimo alle 5 sono sveglio, pronto ad alzarmi, però non mi alzo sino alle 9. Buonasera a tutti. Perché tu stai sempre facendo persiane con la mente? No, siamo così, dormo poco, ecco. Però diciamo che anche se vado a letto, se mi corico per dire non so la sera, un'ora e mezza, una cosa così, che veramente mi corico, però è la stessa cosa, sempre quelle ore sono, anzi quelle vanno addizionate alle ore della notte, per cui mi sveglio anche prima. Va bene, dai. Comunque il terremoto si è sentito da Cagliari a Sassari e è arrivato sino in Liguria. Questo è quello che ha detto la radio, cioè la televisione stamattina presto, perché io ascolto la radio, già alle 5 del mattino sono già con la radio accesa e poi seguo la televisione sino alle 9. Avanti, Cla. Ciao Giulio, buonasera, ben entrato. No, io sinceramente non ho sentito niente, la verità, assolutamente. Veri era proprio perché se dormo quelle 2-3 ore dormo, poi apro gli occhi e non c'è niente da fare. Allora non mi alzo perché non ci faccio niente, però sto a letto, dormo e sveglia e poi a quell'ora mi alzo e esco. Vado a prendere il caffè, sigarette, do un'occhiata al giornale. E poi rientro a casa a portare il cane. La mattinata è sempre quella. E appunto in questi giorni sono andato a fare con la casa, quindi sono un po' impegnato. Diversamente la mattinata era uscito. Al pascolo bravo. Avanti, Robè. E il cane è qua, non si è svegliato. No, il cane guarda tutti, puoi alzare anche alle 4 del mattino. No, non si ne beja, Edno. Ed è cucato una sua brandina, coperto col plaid come adesso. E aspetta le 7 e mezza, 8, 9, 20, 8, 9, 4, la sera a portarlo. E la mattina, te lo vedi, io quando vengo da te, cosa ti dico? 9 e mezza, così, vabbè, stamattina devo portare il cane, lui c'ha gli orari sui. A quell'ora tu vai, come io apro la porta di casa, allora lui si alza. A volte viene, mi viene incontro col plaid sopra, la, sopra, perché è tutto coperto, perché un cane di biase è berugato. E allora esce. Quando lo riporto, se ne va nuovamente al suo posto, è come che non ci sia. È un gatto domestico. No, io ho il sonno delicato, basta che tu mi succhi da lontano, da vicino, scatto, ho un sonno allucinante. Se dovessi prendere caffè, guai, non mi sveglio più, cioè non me ne addormento più, perché io sono di quelli, basta una Coca-Cola, se io mi prendo una Coca-Cola la notte, guai, non dormo tutta la notte. Non ne ho mai preso di caffè, se dovessi prendere il caffè non ne dormo per 2 o 3 giorni. Se prendo caffè anche alle 10 del mattino, la notte non dormo, infatti io caffè non ne prendo. Anche se lo metto nel cappuccino, se metto un goccio di caffè nel latte e faccio il cappuccino, la notte non dormo. Per cui si può immaginare, invece c'è gente che se ne beve 5-6 durante il giorno di caffè anche la notte e non le fanno niente, non le fa niente. Purtroppo è così. Comunque va bene lo stesso, dai. Non c'è problema. Luca! Sì, ecco, mi sono orientato. Sono andato un attimo in cucina, mia mamma ha messo a cucinare le fave e gli ho detto controllando io. E si dà l'idea, e si vai via. Ma cosa volevo dire, mannaggia, mi sono dimenticato. Devo stare parlando giù, così mi ricordo cosa dovevo dire. Di cosa stavo parlando? Stavo parlando un po' qua della battuta che ho fatto prima di quella ultima che ho fatto, che ho detto che il terremoto l'ho sentito io stamattina al notiziario, alla televisione e anche alla radio, al Gazzettino Sardo. Io alle 7.20 tutte le mattine ascolto il Gazzettino Sardo, poi passo a Rai 3 a quell'ora, alle 8.20, e cioè alle 7.40 danno Buongiorno Regione ed c'è anche lì il Gazzettino Sardo fino alle 8. E ha detto la televisione, hanno detto alla televisione che il terremoto è partito dall'Algeria, è partito 200 km lontano dalla Sardegna e si è sentito a Cagliari, Sassari e anche in Liguria addirittura. Ecco, queste sono le notizie che ho sentito io stamattina alla televisione. No, vabbè, l'ultima, no, non di questo. Ti volevo dire una cosa, me la sono dimenticato, mannaggia di Vichirindi, non questa roba del terremoto, l'ultima cosa che hai detto prima. Se ne fa per me un attimo, rispondo. Stavamo parlando del caffè, che se metto io il caffè nel cappuccino, cioè se faccio un cappuccino la mattina anche alle 10 del mattino, preso durante la notte e poi non dormo. Allora, tu basta mettere il caffè in deck, vedrai che lo fa anche a me. Però a me mi fa agitazione, il caffè non ne prendo normale, lo prendo deck. Tu metti il deck e vedrai che non te lo fa. Ma è uguale, perché provato, sta provato, è uguale, no? Anzi, ti dirò di più. Se prendo il tè la sera, lo stesso discorso. Eppure il tè è una cosa abbastanza leggera, per cui anche quello mi fa effetto. Ma se metto quello normale mi fa... non va bene, dai. Quello deck, avanti, a tu, ci sei? Sì, sono qua, è il tè più forte del caffè, giù. Ma sarà pure più forte, non lo so. Ma dico, se lo prendo è lo stesso discorso, questo non lo so. Eppure io il caffè, prima negli anni scorsi ne prendevo anche 2 o 3 la mattina e non mi faceva niente, invece adesso da un po' di anni a questa parte ho notato che se prendo un caffè, anche un cappuccino, perché nel caffè, cioè nel latte c'è il cavallo del caffè, e allora la notte nisba, niente da fare, al massimo mi posso addormentare che sono io un'ora, poi mi sveglio e rimango tutta la notte sveglio senza chiudere occhio. Sì, era capitato anche a me tempo fa, infatti poi mi hanno proibito il caffè e mi hanno concesso solo di bere quello del caffè nato in bassa misura. No, io non ne prendo proprio niente, nemmeno la mattina, No, assolutamente. Invece c'è gente che la mattina se ne prende 3 o 4, poi magari se lo prende anche a pranzo, se lo prende anche la sera, poi se lo prende anche a cena e non le va di niente. Purtroppo è così. Non tutti siamo uguali, dai. Purtroppo la vita è diversa l'una dall'altro. E per fortuna, Claudio. Io anche cambiato radio, stando col gas a far andare, se non si va dal rumo. È uguale per me la stessa cosa. La stessa cosa. Io ne prendo uno la mattina, ma presto, è alle 8 e basta. 8, 8 e mezza, basta. Normale, ma macchiato. E poi finito. Se io dovessi come Roberto bere una Coca-Cola senza con la caffeina, a cena non dormo più, il caffè dopo pranzo assolutamente, ma anche a metà mattinata niente, uno presto proprio a colazione, macchiato, e altrimenti non mi fa dormire. Avanti Luca. No, a me proprio mi agita, no, per carità, caffè te che l'ho preso, sicuro sì. Ero da un po' adesso non ne prendevo, c'era tutto l'amico l'altra mattina, me lo sono preso, poi mi sono preso una cremetta, giusto per così, e niente, no, caffè normale non ne metto io, se ti fa quel problema lì, sono Giulio, io il latte lo bevo, se voglio stavolta bevo un tazzone di latte, sempre col caffè Deck, e dormo tranquillamente. Sono rientrato io. Io avevo, ad esempio, è un periodo che sto mangiando il latte la mattina, con i biscotti. Però a periodi, quando la vuoi mi staccavo, cambio e mangio lo yogurt, un bicchiere di yogurt tutte le mattine, e quella sarebbe la mia colazione. E forse la colazione più sana è quella, lo yogurt. Lo compro a barattoli da chilo, lo compro, poi tra l'altro costa anche una miseria, 1,79 euro costa qua nel negozio vicino a casa, dalla MD, il negozio nuovo, e devo dire che è anche buono, mi piace molto. Però adesso sono già un paio di mesi che sto mangiando di nuovo il latte intero, non scremato, no, perché scremato non mi piace il latte. Ma lo mangio caldo, anche d'estate, mi piace così, diversamente non mi piace più di tanto. Avanti Roberto. Io né latte né caffè, proprio, mi vedo, sino a 6 anni l'ho bevuto il latte, tutti i giorni, poi ha fatto, da come sono stato all'elementare mai più, non ne ho più bevuto, non mi piace, no. Bevo mangio tutti i tipi di cose, di formaggi, proprio a crepatura, ne mangio anche troppi, però latte, yogurt neanche a vederlo, è una cosa che non mi piace, è troppo acido, budini, tutte queste cose così, sì. Però di non mi far vedere né latte e né caffè. Il profumo del caffè mi piace, ma il latte, c'è coso, quello a fianco a noi, il padre di Marcello, quello si prende 13 caffè al giorno, c'è la macchinetta e 3 pacchetti di Marlboro, va bene Rivazzi? L'ho visto, ma il giorno io sono andato lì, ti ricordi, sono andato per la macchina, sono entrato in ufficio a pagare, c'è una ghea che suffizio, come si fa? Cioè se lì dovesse entrare un controllo non si può, è un posto pubblico, non si può fumare lì dentro, ma mica è una ghea, vero Già lo so, ma fumano tutti, a parte uno forse, ma rimanere dentro, io quando entro di là, a parte c'è quel riscaldamento, l'aria condizionata, la manetta, un caso da morire che ti fa male, e poi tutti fumando, è una camera di coso, di fumatù. Scappo un attimo che mi brucia, dai, ritorno subito. Per carità, che schifo. Ma guarda che io lo sai fumo, rispetto agli altri non fumo in macchina, non fumo davanti alle persone eccetera, però veramente da schifo, a me tu mi puoi stare a fianco, a me fiago di fumo non mi esci, non me ne senti, perché io sto molto attento a queste cose, ma lì ti giuro il giorno sono entrato a pagare lui, tu non ci saresti entrato, infatti gli ho detto cosa io a Marcello Roberto, ho detto Marce, non fa niente, non fa niente. Una ghea, come i vecchi tempi, una puzza di fumo dentro questo ufficio, Luca, non si poteva stare, veramente non si poteva stare qua, una cosa vergognosa. Antonio, mi ascolti bene col Galaxy, sì? Io ti ho attenuato, Cla. Addirittura. Sta dando, sì, più del 4,30, sto dando 20 watt, 25 watt. Perché se no mi satura, ti sento un po' satura, devo tirarti fuori 20 dB, se no ti sento un po' distorto. Ma Luca, perché non fumi più tu, Luca? Io non ho di 13 anni che ho smesso. Non lo sapevano, Claudio aveva smesso una settimana, cantè che hai smesso due, poi peggio di prima. No, ma non pensare, perché vengo da te, mi ho già preso il caffè, mi fumo una sigaretta all'aria, io non sono un grande fumatore, ma a me un pacchetto di sigarette mi fa anche due giorni. Prima sì, ma io non sono un grande fumatore, come vedi non ho voce rauca, non ho mai avuto tosse, sto benissimo, non, ho fatto anche le visite da poco, non sono un grande fumatore, fumo pure roba leggera, no, non fumo MS, Marlboro, ma non sono un grande fumatore, vabbè, assolutamente. E allora ce ne vedi i fumatori? No, io pensavo che invece fossi assiduo, eh. No, quello, la cosa brutta di Marcello qua, che fuma da pochi anni, non ha mai fumato, gli dava fastidio il fumo, ha iniziato a fumare, adesso fuma, non dico come il padre, magari se ne fuma un pacchetto solo lui, però fuma un bel cacchio anche lui, e non fumava sino a 4-5 anni fa, ma Marcello non fumava. Figura di due, ma anche Marcello già fuma, fastidio. Vabbè, avanti Antu. Io ero un fumatore. Tu sì, tu fumavi le Diana Blu, me lo ricordo. Ma io me le mangiavo le Diana Blu. E pure lui ho detto. Allora, c'ho vicino di casa, no? Siccome intanto gli chiedo i giornali, perché li uso per il cane, preferisco che la faccio il giornale che piuttosto che la fa in terra. Cazzo, non si può entrare. Una volta c'ho entrato, c'ho il pigiama con la mela, l'ha messo la notte, bugia. Vabbè, l'indomani ho fumato, io metto la morbidente. Beh, voi ci credete che me ne sono uscito con la puzza di fumo addosso, me lo sono levato, messo la lavatrice e mi sono dovuto fare la doccia. Sono rientrato, ogni tanto devo scappare che mi brucia. Ma la cosa più brutta, le donne, io conosco delle donne che hanno una puzza addosso, c'è una ragazza che non è neanche brutta, che passa tutti i giorni col cane, ogni tanto si ferma a parlare così, ma ha un fiaco di fumo, questa, tutto il giorno io l'ho sempre vista con la sigaretta in bocca. No, la donna io non la sopporto, né mia moglie né mia figlia fumano, io purtroppo c'è sto vizio, avevo 14 anni, però ho il massimo rispetto a casa, io non fumo diciamo dentro, se devo fumare una sigaretta me vado nel poggiolo, se bella giornata, se no qua nella mia stanza, io poco fa una me l'ho fumata, ma c'ho la finestra aperta, ci può essere anche la neve fuori, a me non me ne frega niente, giusto perché fuori insomma c'è troppo freddo, però ci deve essere il massimo rispetto, assolutamente, altrimenti è un casino. Avanti, oh Lu. No, guarda, per carità, no, è una cosa che proprio io odio, aspetta un attimo che chiudo la porta, un attimino, ecco qua, così. No, io ci sono, se non è qualche posto che fumo dentro, no, mi rifiuto, per carità, perché è capitato un po' di volte. Catapanatoggiato, tu profumo, cioè tu mi conosci, chiamo ci su cui o no? Andare nei posti, cazzo, che magari fumano, e andate con la puzza di sigaretta, cioè, ti senti sporco, è più forte di me, non ci riesco. Ma è così, ma cioè non esiste, capito? Dentro casa non si fuma, sia per rispetto agli altri, però anche per rispetto alla casa, perché non va via il fumo, non va via, si impregna, si attacca ai mobili, si attacca ai vetri, si attacca tu alle tende, a tutte le parti. Già l'hai vista la mia macchina, gli anni che ha io dentro non fumo, e la cappotta è sempre bella, io ho visto macchine nuove, di 2-3 anni di vita, cazzo con la cappotta gialla, ma è macchina fumi, e allora me la futta assai a me, e Brausi, bellissimo, proprio un'igiene alla grande, vai Giulio. Ok, no, io non ho mai fumato, anzi non mi è mai piaciuto, assolutamente, da sempre però, per cui no, non mi piace nemmeno l'odore, per me è un odore schifoso tra l'altro. Sì, ma ci sono quelle persone accanite proprio che ce l'hanno proprio radicato addosso la puzza della sigaretta, che non se ne va nemmeno se lo lavi con la varichina, ma che dai, così non va bene assolutamente. No, qui non fuma nessuno, non fuma, per cui tutto è tranquillo, non c'è problema, nemmeno mio genero fuma, niente, assolutamente no, né si beve né si fuma né si beve qua. boh, siamo così, e cosa vuoi fare? E non per non spendere, assolutamente no, perché grazie a Dio di là non mi mancano, ma proprio perché non ci piace né a me né a nessuno a casa. E così lo stesso è scorso per i miei fratelli. Hai visto tu, ma che aggiunto mancano di là? Hai visto, eh? Lo so, vabbè Giulio, perché comunque lui ce l'ha di truciolare. Allora, noi ce l'abbiamo di carta. No, la sigaretta intanto è una cosa che fa male. Io ho sempre detto, senza offendere mai nessuno, chi fuma per me è una persona, almeno su quel punto lì, poco intelligente, perché si sta facendo del male da solo, con rispetto per qualsiasi persona, ci mancherebbe altro, perché ognuno può, è padronissimo di fare quello che vuole, ma io la penso così, a questa maniera, a questo modo, è il mio modo di pensare, e ne sono anche fermamente convinto, tra l'altro. Poi naturalmente non lo faccio pesare a nessuno, ci mancherebbe altro, perché ripeto, ognuno fa quello che crede, ma che dai, avanti Antu. No, aspetta, scusa, vai, riprendi. No, riprendi tu, dai. No, volevo dire solo questo, cioè sentire una donna, no, Mari, c'era vicino, che tu non fumi, e sentire lei che puzza di sigaretta, guarda, lo schifo totale. Vabbè, l'altra cosa, che se fosse successo al contrario, molte donne schifano chi fuma, per carità, io ripeto, sono stato un fumatore, lo capisco, poi ho smesso, ormai sono più di 12 anni, ma non è quello il discorso. Io ho smesso nel 2008, quando ho preso la luna, fatelo conto, 40 anni so. Mi sa che eravamo lì, e poi tu. Preso, non mi interessa, no, ma poi non... Eppure pensare che, vabbè, io non ho mai fiamo di certo, non mi scena, te le mani te le sentivi purtroppo, però me le sciacquavo sempre le mani, io non ho neanche forti di me. Poi ti fa una litro schifosa, no, lasciamo perdere, no, poi vabbè, ognuno è libero di fare ciò che vuole, non è che... Vabbè, se c'è niente, io proprio vado via qui in alto, no, è schifo. E bisogna che lo mangiano né gassa né luce, né gassa né con la tosse dal fumo, per carità, che schifo. Ripeto, per me significa farsi del male da solo, tutto lì, vai qua. Sì, ma consapevole di tutto ciò, Giulio, non c'è problema, però ti ripeto, se uno è consapevole di quello che sta facendo, si fuma 10 sigarette al giorno, 8 sigarette al giorno, perché purtroppo è un vizio bruttissimo che ci vuole molta forza per uscirne. Io ci ho provato, la verità, sono sincero, non ci sono riuscito, però consapevole che mi posso uccidere da solo, ma grazie a Dio avevo 14 anni quando ho iniziato, ne ho quasi 61 e quindi non ho mai avuto grossi problemi. Io non ho tosse, non ho, come dice qualcuno, catarro, non ho i gatti rossi, sto benissimo, non ho mai avuto la voce rauca, proprio perché sicuramente sono stato sempre molto attento, non sono stato mai un fumatore accanito e basta, però è un vizio bruttissimo, volevo ammettere, è un vizio bruttissimo, però ripeto, io non sopporto le donne che fumano, mia figlia non ha mai fumato, mia moglie mai, lo stesso, mamma fumava quando io ero ragazzino e ce l'aveva tolto da subito praticamente, però è un vizio molto brutto, sicuramente, brutto e costoso perché fuma tanto, io ho persone che conosco, non amici, ma che si comprano la mattina, dopo li prendono il caffè anche assieme a me, dammi 3 pacchetti nel mese, 3 pacchetti di sigarette di fumo, e allora cosa devo uscire a comprarmi le sigarette? Cioè ti fumi 3 pacchetti di sigarette, lì ti stai ammazzando veramente, cioè sono 20, 40, 60 sigarette, no 60 no, ma 40 lì così, appunto sì, infatti lo senti con la tosse, con quello, con quell'altro, con questa voce raucedinosa, come dice qualcuno, e lì ti stai uccidendo, veramente, lì ti stai uccidendo. Va bene, dai, visto che ho il microfono, per il momento vi lascio, ma lascio tutto acceso qua perché non devo andare da nessuna parte, il cane lo porta mia figlia, che riguarda mia figlia, io devo andare un attimo ai fornelli che devo preparare la cena. Ok, però lascio tutto acceso, semmai rientro subito. Il cambio mi sembra che spetti a Roberto, fai girare tu, per me un attimo di quel Rix, vai Roberto. Ok, allora io stavo per aspettare per entrare per chiudere, concludo il discorso del tabacco, la cosa più più schifosa ancora che ci siamo dimenticati, quando le donne si mettono a fare le sigarette, che a me mi fa un senso vedere, più che ti fumi una sigaretta può essere anche elegante, fatta, ma quando le vedo con questa bava, tutta la ringa piena di coso, di tabacco, un fiago in alto, a me mi fa un senso, guarda, è una cosa che mi dà fastidio, perde tutto il fascino che può avere una donna. Adesso qua concludo e vi lascio perché devo far cosa, devo uscire, ci sentiamo alle prossime, buon proseguo a tutti di QSO, ci sentiamo alle prossime, ciao Giulio, Antonio, Luca, Claudio, eventuali qua amici ascoltoni, ciao ciao, cuore da parte mia. Ciao Robert, salutoni. Guarda la sigaretta che c'è a Canale 5, guarda, c'è ogni ragazza, fuori di gamba, molto di sigaretta, non so, ma tu non hai il televisore lì, no, riprendi. Ma io sono il televisore, ma tu te ne devi mordare in buscia, cara. A ogni pezzo di ragazza, ma buona tuta, avanti Giulio. Non eri fidanzato. Ero. Ah, vabbè, però almeno mi dite così, che dobbiamo risolvere per mia moglie. Ma santo, io vai a Canale 5 la vedi, su Maria, la fine del mondo, bella, brava ragazza, complimenti. E ne prendo io allora, ciao Roberto, salutoni, ci sentiamo alle prossime, dai. Sì, io capisco quello che ha detto Claudio, che è difficilissimo smettere di fumare per un fumatore, però io faccio anche questo ragionamento. Quando uno si sente male, proprio a causa della sigaretta, il dottore gli dice non devi più fumare, di punto in bianco non fuma più. E allora come si spiega questo discorso che è difficile dimenticarsi della sigaretta? Quando di punto in bianco uno proprio per necessità di salute smette di fumare. E anche questo c'è da considerare, non lo so. Io sono sempre dell'idea che ci vuole solo buona volontà in tutte le cose, e anche nel fatto del fumo. Avanti a tu. Beh, vabbè, ne approfitto per salutare Roberto, scusami Roberto, non guerretti, no giù, non è così, io capisco molte volte chi è fumatore, è difficile smettere di fumare, io lo so perché mio nonno faceva il suo stesso mestiere, aveva problemi alla respirazione dovuti alle polveri che si assorbiva tutti i giorni, perché allora non era come oggi, eppure fumava, gli avevano proibito il fumo, eppure avrebbe voluto morire con la sigaretta in mano, tutto ligio, è questione di gusti, No, non è questione di gusti, io sto parlando, se uno disgraziatamente si ammala, proprio a causa della sigaretta, il dottore ti dice non devi più fumare, tu di punto in bianco per la salute bolli la sigaretta. Ecco, questo significa che allora si può lasciare, e invece l'accanito fumatore, come stai dicendo tu, anche sapendo che sai che continui a fumare, sai che muori, e allora qui questa è una questione di intelligenza. Io dico che è solo una questione di volontà, per tutte le cose di questo mondo. Io ho visto gente, mi ricordo un medico che avevo io tanti anni fa, che ormai è morto lui perché era vecchio eccetera, a un paziente gli aveva detto tu da questo momento non devi più fumare, davvero lo so, non fumo più, guardi, venga, questo è il mio pacchetto di sigarette, glielo lascio lì, e da quel preciso istante non ha più fumato, mai più. Perché vedi bene, eppure era una persona che ha fumato per 50 anni, è solo una questione di volontà, dall'uomo, dalla volontà dell'uomo, non deve sfuggire niente, io la penso così. Avanti Luca. Io comunque mi sono cambiato per uscire, poi ero metto più freddo, dai. Mi stavo in pigiama un attimo. Tanto sei freddo. Che brutto che sei. Cazzo, manco 50 anni vai già, vai freddo. Anto, io lascio la finestra aperta a casa, se proprio vuoi sapere. Anche io, nel caso che entri qualche bella ragazza, ma non è mai capitato. Insomma, sto tirando meglio freddo. Ah, senti della stufa. Anto, è quella che stufa che hai tu, che ho conosciuto io, quella già scaldasi. Tu vabbè non hai freddo, ma il suo motivo, per forza attacchi quella stufa, glielo grido che non è di freddo. E beh, quella è accesa, nel piano di su io sono in cantina, eppure sento calore anche qua, comunque che il caldo tende a salire, non a scendere. Ma è così, io ce l'ho sempre, a pellet, ma ce l'ho quando il sistema idro con i radiatori, no? Scalda i radiatori e come avere il riscaldamento a gasolio, lo stesso discorso, con la differenza che risparmio un sacco di soldi, perché con gasolio consuma molto di più e allo stesso tempo con pellet. L'unico fastidio, che poi non è un fastidio per me, è che tutti i giorni la devo aspirare, ho l'aspirapolvere, cioè l'aspiracenere, ci metto 3 minuti, ma l'aspiro perché lo voglio fare io, se non posso stare anche una settimana, 7, 8, 10 giorni senza pulirla, ma non mi piace la stufa piena di ghisina, tanto vale tutte le volte che la accendi, ci voglio 3 minuti di orologio, non di più. Guarda, attacco l'aspiracenere, apro lo sportello e do una aspiratina con l'aspiracenere. Per cui non ho, perché intanto mi meglio la tratti la stufa e meglio ti funziona. Questo ne sono più che convinto. Vai ancora tu. Beh, quello sì, Giù, ma tu pensa, è questa mia, io ce l'ho praticamente 15 anni già. 15 anni, sì, qualche lavoro gliel'ho fatto, ho sostituito la candeletta, la ventola tangenziale, quella che spinge l'aria a calda perché si è inchiodata durante gli anni, ma no, ripeto, sempre lì. Sì, in campagna mi sono messo la idro, che mi sono collegato un paio di radiatori lì in campagna, perché mi sono fatto l'impianto dall'esterno, qua è male, bisogna rompere il pavimento, invece là ero, ho passato tutto quanto i tubi in esterno e mi sono collegato alla stufa e cincia. Ho capito, sì, quello sì. E beh, la candeletta è come una lampadina, si può bruciare da un momento all'altro, è ovvio, è una resistenza che quello, c'è anche un colpo di tensione più forte te la può bruciare, per dire, no? No, a me invece sai cosa mi ha creato problemi la stufa? Non la stufa in se stessa, ma bensì il pellet. Perché? Perché avevo comprato del pellet lì da coso, da Salis, lì a Predanieda, che costava di meno, in effetti costa di meno, 4 euro mi sembra qualcosa anch'io, 4 euro e 25 se ricordo bene, o 4 euro e 30, però fate di schifo, preferisco pagare 5 euro e 30 come lo sto comprando sempre, adesso lì 5,29 per l'esattezza, ma almeno so che è pulito. Quello che avevo comprato da Salis ho trovato addirittura la pietra, sicché quella specie di rottore tortiglione, no? che spinge e butta nel braciere il pellet, si era bloccato perché aveva un cantone dentro, ho dovuto ruotare tutto il pellet, prendere l'aspiratore e pulire tutto quanto. E cosa ho trovato? Un cantone, vero, un cantone, per carità. Infatti mai più ne ho comprato pellet da quello. Anzi, sconsiglio a chiunque di andare da Salis a comprare il pellet, perché fa schifo, è sporco. Vai tu, e poi vai, fai girare tu. Sì, Giù, è così, no, è capitato anche a me, perché comunque ormai in questa sera del pellet ne vendono di tanti tipi, ne vendono tutti ormai, il pellet lo vendono dappertutto, lo vendono dove vendono piante, lo vendono al supermercato, lo vendono dove vendono legna, lo vendono dappertutto, e quindi uno compra. Però mi è capitato, sì, in effetti un pellet che formava dei malloppi. Purtroppo è così, ormai non ti devi più fidare, se non l'hai mai acquistato e voi hai intenzione di acquistare il pellet da quella ditta, in quel negozio, ti conviene prendere sempre uno o due sacchi, prima lo provi, se no male andando non lo prendi più. Oh, Antu! Si può collegare anche, vabbè, io ho la caldaia, sono impianto nuovo, la caldaia a gas, si può collegare ai termosifoni della caldaia anche la stufa a pelle, questa idro, così si chiama? Sì, penso di sì, beh, facendogli un bypass, come si poteva fare tra il gasolio e il termocamino tempo fa, sì, penso di sì. Anzi, sono sicuro che si possa fare. Non ho capito. Deve venire a colorarla e attaccarla, provo a chiederglielo. Io ho fatto tutto con quello di Predanieta, con Parolisi, come si chiama? Paolisi. Ehi, con quello lì, l'impianto l'ha fatto lui. Glielo chiedo a vedere. Perché non volendo usare l'impianto a gas posso usare quella per il riscaldamento, mentre invece per cucinare, per tutto, invece è tutto l'impianto a gas. Ma io guarda, essendo come te che vivi in campagna, avrei fatto anche un camino caldaio, un termocamino. Tu non hai il camino? No, non le piace a mia moglie, cioè fa fumo, si sente odore, eccetera, no. E tanto, campagna è una cosa brutta, non sono esattamente così inoltrato nella campagna io, non è che... Cioè sono molto vicino alla strada, quindi non è campagna, no, non ne ho, mi sarebbe piaciuto, ce l'ho fuori, come diciamo, per arrostire, per fare, ma all'interno non ne ho voluto mia moglie. Allora puoi sempre chiedere se puoi mettere, che ne so, tipo una stufa idro che brucia anche mais, brucia un nocciolino, pellet. Provo a chiederlo a vedere. Provo a chiederglielo a vedere adesso che ti ho sentito lontanza, tu mi dici, chiedo a Antonio, visto se ha fatto sta cosa, se è fattibile farlo anch'io, per non stare sempre col gas, mi bruciare un po' di chitargoccia. Avanti Giulio, io vi sto ascoltando ma sono ai fornelli, avanti. Ok qua. Sì, certo, ma ci sono le caldaie, anche il caminetto si può far funzionare con la caldaia, praticamente è idro e ti scalda tutti i radiatori, certo. Cioè nel caminetto si piazza questa caldaia, si piazza e ti funziona. E come ha detto Antonio, mette il bypass dal gas, passi al pellet, certo, si può fare sì. E sono sicuro che ti trovi meglio col pellet, anche perché oltretutto è più sicuro, nel senso che non si sa mai, il gas è sempre gas. Mentre invece col pellet sei tranquillo, sai che ti devi comprare quei sacchetti, quando vai a fare la spesa ti fai il carico nella macchina, delle buone che so io, 10 sacchi, come faccio io di solito, 10 sacchi nel portabagagli e ci stanno giusti, 10, anche 12 ce ne stanno, senza abbassare il sedile e niente. E ce l'hai praticamente un sacchetto al giorno e sei tranquillo e il riscaldamento funziona alla grande e oltretutto è anche molto molto salutare, nel senso che non devi pulire caldaia poi a fine anno o tipo gasolio, non devi fare nessuna manutenzione, nulla, devi solo pulire la stufa con l'aspiracene, basta, non devi fare altro, cosa facilissima da fare. Vediamo se Luca c'è, Luca. Sì che ci sono qua, mi stavo guardando, aspetta, nei video lì su Watch, al telefono, ho lasciato il video. Sì, a proposito, tanto la candeletta, lì si era bruciata giù, no? A Marina. Abbiamo comprato la Sidenet, è durato un mese, sono andato a reclamare, anzi meno di un mese, sono andato a reclamare e ho detto che quello lì non me la cambio perché non passa in garanzia. Ma chi l'ha detto? Tutto passa in garanzia. Tutto ciò che compri nuovo ha un anno, almeno un anno di garanzia, anzi per legge dovrebbe averne due, però facciamo un anno di garanzia, non esiste una cosa, anzi addirittura dopo un mese c'è il recesso, addirittura il recesso, fermati un po'. Comunque hanno detto che quella, purtroppo quella che non passa in garanzia, cazzo, guarda l'orologio, l'ha pagata. Sicuramente non era difettosa, perché la candeletta raramente, guarda che io conosco stufe che stavano 20 anni non si è mai rotta. Infatti la sta accendendo con quel fuoco, dei fuochi, come si chiama? Si brucia, dopo tutto la resistenza, niente di particolare. Tutto lì, dai, mi assento ancora di nuovo, dai. E io giù, dopo allora se non lo so. Buonasera a tutti. Buonasera anche a lei. Ciao. Vi sto ascoltando, non sto bene, vi sto ascoltando. E noi siamo qua, che parliamo per fare in modo che tu ci possa ascoltare. E voi siete bravi. Dai, allora mi fate compagnia. Ehi, già, cosa c'hai? Un giorno di ghiacciaggio. Guarda, io l'altro giorno sono andato a farmi curare un dente. Quando sono andato avevo un dolorino, adesso sono 3 giorni che sono sotto a dolore, eppure il dente è curato. Lo so, io ci sono maledetti, che devo fare il testo. Io vabbè, calma, ci vuole. Quindi che ci vuole? Gli anziani, pazienza e curufrimo. Mi sono preso un occhio adesso, vediamo un po'. che vuole entrare avanti. E qualcuno poco fa stava con la sovramudura a Claudio, ma non voleva la zia. A Claudio. E quando stava parlando poco fa, mi si è fatto quel passaggio un po' più lungo, sentiva qualcuno sotto che gli voleva mettere la portante. Boh, no, non lo so. Vabbè, già, quali denti, quelli di sotto? Via. Via. Vabbè, dai, non curare più. Ma si può essere curato. Ah, ma stare parne tutte le fai in patologia già. Loro preliminare. Ogni parte che viene sui 10-12, ogni corona di lì. Se vuoi ti faccio parlare con Daniele. No, Danilo si chiama, un tipo che è giù a Cagliari. A me ha fatto allora. Fai ti prenderà intorno ai 6.000, dai, 6.000, te li fa. Sono tornato. Via, ciao giù. Ma io sono presente, ma sono presenti soldi, per il pacchetto di un importante, ma mi metto a farvi conferma, rispetto ai soldi. Cazzo, avanti giù. Ma non li avevi già fatti già i denti? I soldi. Ah, ma parte ne hai fatto. KK, ciao, buonasera, avanti giù. Ok. Vabbè, dai, scusatemi, ma ogni tanto devo scappare, perché oggi ho fatto la terapia e dunque ho il bruciore quando non mi passa l'effetto del farmaco. Allora, saluti, non siete rombe di sicuro, perché mi dovrò alzare ogni mezz'ora massimo, anche di meno di mezz'ora, però mi sopportiamo. Sì, tornando al discorso della stufa, io la verità mi trovo molto bene. Io prima in passato ce l'avevo a gasolio, ce l'avevo, però era un salvadanaio sempre aperto, una bucaria per carità. E ti dava anche dei problemi oltretutto, non ti credi che quello a gasolio funziona proprio perfettamente sempre, no? Assolutamente no, anche quello ha necessità di manutenzione, intanto tutti gli anni immancabilmente dovevi fare, prima di metterlo in funzione dovevi fare la pulizia della caldaia, dovevi fare. Poi invece quando ho cambiato sono tranquillo, avanti che me la giù quasi 20 anni e sono tranquillo, non ho più problemi di riscaldamento a quelli figli come da prima. Ti devo dire che di più, quando ordinavi il gasolio, se non li ordinavi almeno 500 litri, non te ne portavano nemmeno. Primo, e se che una vacca di colpo, così, tutta un'ora. Oggi invece vai e ti compri, per dire che sono io, 2, 3, 4, 5, 10, 20 sacchi, quanto ti piace, anche un sacco te lo puoi comprare. E ti difendi, che sono io per 15 giorni, te ne compri 15 sacchi, 15 giorni sei tranquillo. Tutto lì tu. Sì, no, lo so, perché io l'ho fatto per 5 anni, ma l'ho tentato di caldaia a gasolio, e quindi lo so che bisogna pulire i bruciatori, e anche in quelle a gas lo stesso, devi pulire i bruciatori, ugelli che si intasano, anche nella tua pellette, perché comunque non basta solo aspirarla giù, che ogni tanto devi smontarla, pulire lo scambiatore di fumi, perché dentro nelle ventole dello scambiatore di fumi si deposita la fuligine che poi diventa crosta, che poi rallenta la ventola, che sbocca il motore, cioè ci sono sempre delle manutenzioni, però ripeto, sì, hai ragione tu, per quanto riguarda il pellet uno si difende, se ne hai soldi ti prendi 2-3 sacchi di pellet e stai andando, se invece non ne hai soldi ciccia, invece col gasolio meno male o te lo fai portare a casa, oppure se hai la possibilità di mettertelo con i bidoni te lo metti. Se lo metti con i bidoni ti costa anche molto di più, tra l'altro non va bene, oltre al fatto il sacrificio, lo sforzo che fai, invece in questo modo tranquillo e pacifico, senza sforzi così molto molto pesanti, vai, te ne compri che so io. Beh, oggi questa settimana mi voglio comprare il pellet per una settimana intera, me ne compro 5 sacchi e a me mi basta, perché io in realtà un sacchetto al giorno non lo consumo, sempre c'è un residuo, c'è un avanzo, c'è. Per cui vedi bene che a questo punto E devo dire che io la suppo l'accendo tutti i santissimi giorni, intorno all'una, all'una e mezzo, e la spengo la notte sino alle 10, 10 e mezzo anche. Per cui vedi bene, il consumo non è così eccessivo. Sì, è vero, costa un sacchetto, costa 5,30 euro, perché no? Va benissimo, ma diciamo che è molto, ma molto più confortevole la suffa pellet. Io perlomeno la penso così, poi ognuno ha le sue idee e fa come crede. Avanti Luca. Infatti. Io ho avuto la smontata tu, diciamo lo scorso anno, tutta pulita bene, non avevate i pannelli, dentro no, non l'ho pulita, dove c'è la vetta, guardano lì. Poi l'ho levato all'interno dove c'è il bruciatore lì, la cosa accende, diciamo. Ci sono quei due pannelli lì, tutto pieno di fuligine, tutta pulita bene. E l'unico problema che ha è che purtroppo non c'è candeletta, cioè c'è ma non accende. Usiamo i fuochini. Sì, vabbè, lo compri già di là da internet, costa 15 euro. No, non costa 15 euro, costa 30. No, quella che ho preso io per una di un amico mio, 15 euro l'ho pagata l'altro giorno, 15,90 euro da internet. E meno male costano 15-18, cioè non si distaccano mai dalle 20 euro. Vabbè, ma dipende anche dalla lunghezza e dalla potenza. Questa qua è 270 o 280 watt. Ehi, vabbè, ma non cambia niente, Luca, sono candelette di quella grandezza, sono per stufi a pelle, che costano, ripeto, non più di 20 euro. Ce ne sono che costano 15, 18, 20, dipende da quante se ne vendono. Quelle che sono più commerciabili costano meno, quelle che sono meno commerciabili, nel senso che le montano solo poche stufe, te le fanno pagare qualche euro di più, però ripeto, non superano le 20 euro. Certo, chiaramente se vai a comprarla qua e ti la vado a nebbare tutti, lo sai, per qualsiasi cosa, pure un cacciavite, se lo compri qua ti costa 10 euro e mai da internet lo trovi 5. Senza dubbio. Però questo fatto che non entri in, che non passi in garanzia, con un coso elettronico, va. Vabbè. Infatti io ho chiamato il tipo, il responsabile, mi ha detto guarda, se vieni ti faccio uno sconto e ti regalo pure 3 sacchi di perle, ma quelli di là bianchi. Ah, vedi bene la dimanca, te la rompio. Me. Quanto ti serve la pedivella della stufa a pelle? Eia, stufa a peltro. Se ti serve te la do io la pedivella, io mi l'ho tolta stamattina, l'ho verniciata, adesso l'ho riattaccata. Ma poi tu non c'è quella a pedali? No, sono rotti i pedali, Anto, c'ho la pedivella. Cazzo, hai fatto la modifica come la vezza. Allora, e poi hai visto dove si aumenta e diminuisce? Lì l'ho messo l'acceleratore col cavo d'acciaio. Cavolo, con la farina, con la vite in testa, quello che si usava per la moto zappa. Eia, col mammut, quello di ferro, che si stringe con la chiave da sì. Quello che si utilizzava per il sì. E allora, sì. via. Bene, no, io lungo. Grazie a Dio. Sto andando al 61 e vado giù, tutti i denti miei, mi tocco, sani, uno giuro mi manca, che me lo sono fatto togliere perché me l'aveva capsulato 2 o 3 volte, ne usciva sempre, fa una cosa, bucanino, boh, basta, uno mi manca, il resto sono tutti miei, non mi posso lamentare a fare i denti, almeno una cosa sana ce l'ho, pistolino non ce n'è più, ma i denti già ci sono. Vedi. Lo so, tu sei al contrario, lui, ma madre natura non è sempre a favore, scusa, tu c'hai il pistolino che funziona e i denti no, io invece sono al contrario, come Antonio, mio Antonio è la stessa cosa. Lo so, ma dove funziona, i denti nello pistolino. Tu, una cosa ti puoi fare, o ti sistemi il pistolino e lasci perdere i denti, o ti sistemi i denti e lasci perdere il pistolino, amore mio, non è Simone va troppi goci, è una cifra costosa, capito? Quindi Antonio ce li ha tutti e due, c'ha i denti e il pistolino. Ma c'è chi è già con l'altro con fora? Allora, trammaneggia. Ciao Anto, buonasera, ben ascoltato. Io ho roba i fornelli, ma già sono sempre qua. Vado e vengo. Finito è Anto di travagliare. Ehi, non va niente. Anzi, tu sei sta cosa. Ah, tu, come ti intendi il pistolino subito? Ma la giù, no, tutte sue, Antonio non funziona più. Aga! No, Antonio Riserva, Antonio Bomba già va bene, dai, sei giovane tu, Antonio Riserva non è vecchio come me, quindi deve stare attento alle grandi manovre. Ma Giulio non c'è più. Sì, che sono qua, come no? Ho detto poc'anzi, se mi fai uno di legno sia a posto, no? Infatti, un pezzare di travisetto giù. Fatto è, e andremo a testa. E i denti sono una brutta bestia, eh. Maledizione, io ripeto, grazie a Dio, non ho mai sofferto i mal di denti e va bene così, però chi ha quel problema è una brutta bestia, anche perché purtroppo Dio, la bocca serve per mangiare, e quindi se i denti non sono a posto, la masticazione non va bene, tante cose ci sono, e poi si soffre tantissimo, perché il mal di denti è peggio del parto, guarda. Dipende da bocca a bocca, lo fai. Ognuno fa di quella bocca gioia. Non mi hai capito, ma... Dai, quando mai? Esagerabili. Antu, la masticazione, quando uno dice, non posso mangiare quello perché non mastico, poi io c'ho delle persone che conosco e hanno grosse difficoltà. Sardini duri, martigendi perché non riescono proprio a... capito, a problemi proprio ai denti e alle gengive, è una cosa brutta, gappa, però va bene, dai, avanti giù, riprendi e fai girare. Sì, e vi saluto anche perché mi hanno già chiamato per la cena, oggi sono i buoni tantissimi voi nomi, si cena qualche minuto prima, sono le 8 quasi adesso, ci mancano ancora 2 minuti, 1 minuto e mezzo, là. Strano. Oggi va in ebbrezza, se vede va a farmi alcuni osso. Va bene, io vi ringrazio per la chiacchierata, ci sentiamo, ciao Claudio, Antonio, l'altro Antonio e Luca. Saluto a tutti, ascolto Finalino e dopo per me cena, ok? Avanti Antonio Bombolo. Ecco, saluto Giulio, ce la sentiamo alle prossimine, ciao. Avanti Antonio Rese. Sì Giulio, ok, buon proseguimento, allora, buona carica, buon riposo e ci sentiamo alle prossime. Vai Claudio, non c'è, riprende a chi c'è. Ciao Giulio, la saluto e buona cena alle prossime. Avanti Bobori. Ciao Giulio. Ma quando mai Claudio di Trici Gossi? Non funziona, i denti funzionano, il pizzolino non funziona più, ma quando mai? Aspetta che saluto a Giulio prima. Ciao Giulio, buona cena, buon tutto, grazie delle due chiacchiere. Anto, io sono sincero, non va e quindi devo stare a riposo, non è che posso... Ormai i gattucci sono tutti parati, a Giubeguardo la ciamba fuggiti ma non venuta la va. Non ridere Anto, cazzo, non ridere. Tu sei peggio di me, inutile che ridi. Antonio Riserva. Ma come fai a sapere? Ti vedo, non conosci il Galaxy come il video. Io con chi parlo appare la cosa, è come una videochiamata, capito? Ti vedo che stai ridendo, scusa, perché ridi? Io sono serio e tu ridi, No, io rido perché sto pensando, mi sto immaginando la faccia che c'entra il troppo. Cazzo di amore. Luca, fai qualcosa, difendimi, cara. No, non ho capito cosa ha detto Antonio. Antonio non è ancora ridendo, non è che è ancora ridendo. Che senso, mi sono immaginato, Lu, la faccia di Antonio Bombolo. Che? Sì, che stavo pensando a Claudio che non mi funziona il pipino. Vabbè. Sembra lui con quei denti e tutto, cazzo. Sì, se vuoi mangiare roba doccia e la devo mangiare bene con i denti buoni, no, è un casino. Io pure compare già di carne denna, i denti, ti direi come ti so. Io non è così, no. Anche per lo stomaco, sembra così. No, lo stomaco ha bisogno di roba sporticata bene, no? Che si ingotti tutto in trio. C'era una portante sotto, chi è che vuole entrare? Io ho schiacciato, per sbaglio ho schiacciato. Ma per un momento commentava una cosa, raga. Vabbè. Guarda, io l'ultimo una cosa, quello che praticamente mi sono fatto togliere è perché da ragazzo spaccavo le noccioline, ma non le noccioline, le noci normali, quelle noccioline rotonde che si tostano anche, le spaccavo in due. Infatti mamma mi diceva vai a ti bassa, ehi a ti bassa, alla fine ho crepato il dente, l'unica stronzata che facevo. Però io da ragazzino, da bambino non mangiavo caramelle, assolutamente non mangiavo, capito, molta roba zuccherata, e quindi forse per quello, forse sicuramente per quello. Riprendi Antonio Risi, un secondo, vado a girare la padella. Sì, confermo, anch'io non sono mai stato goloso di dolci, di caramelle, di qua, da bambino mai. Invece ci sono certi bambini, ho visto a casa miei nipoti, che mangiavano le caramelle come il tipico la birra. Luca! Ehi, no, stavo leggendo quelli che hanno arrestato per gli assalti e portavalori.